2013. Per voi, per te. Mille volte ho resistito la corrente, e mille volte in mezzo a questa gente, da solo seguendo il coro, ma poi sei arrivata tu, e questa salita non era più infinita, perché questa vita si era addolcita. Se stringo la tua mano, se dico che ti amo, se stringo la tua mano, se dico che ti amo, se dico che ti amo. Tu sei ragione di sole, sei strada nel mio cuore, sei sveglio al mattino, sei ragione per cui vivo e scrivo ciò che sento. Tu sei l'aria che respiro e tu sei diventata il mio soffice destino. Fammi quel movimento, inizia a ballare in un momento. Stare fermo è impossibile, tu resti diventi invisibile, tu resti diventi invisibile, invisibile, invisibile. Mille volte mi sono voltato indietro, con tanti pezzi di una vita, pezzi di vetro, sparsi qua e là, ma ora resto, per dirti che contesto bene, e non è presto. Non ti sto a contare, e tutte le mie pene, e non mento se dico che ora è una macchina del tempo. Prestami una gomma, per cancellare il mondo, ti lascio uno spazio. Intorno a me un tondo disegnato a matita, come la mia vita, come la mia vita, come la mia vita, come la mia vita. Tu sei raggio di sole, sei strada nel mio cuore, sei sveglio al mattino, sei ragione per cui vivo, scrivo ciò che sento, tu sei l'aria che respiro, tu sei diventata il mio soffice destino. Perché bella sei tu quando ridi, mi basta guardarti un attimo, tu decidi che non è ora di morire in questa vita che ti fa soffrire, dove non c'è nessuno che ti aiuta. Io cerco qualcuno, qualcuno che mi aiuta, che sa sentire vivo in questo pianeta, dove devo arrivare, vivo la mia meta. Ma è davanti a me, sì sei proprio te, ma è davanti a me, sì sei proprio te, ma è davanti a me, sì sei proprio te, sì sei proprio te, mi basta che tu. E tu stai qui con me, e tu stai qui con me. Fammi quel movimento, inizia a ballare in un momento. Come lo fai tu, non lo fa nessuno. Cielo, mare, terra e una notte, che sai tu, ha cambiato la mia vita. Non ti posso dir di più, ci sei solo tu. Ci sono solo gli occhi tuoi, per vivere oggi noi. Ci sono solo gli occhi tuoi. La corrente, mille volte in mezzo a questa gente, da solo seguendo il coro, ma poi sei arrivata tu, e questa salita non era più infinita, perché questa vita si era addolcita. Se stringo la tua mano, se dico che ti amo, se stringo la tua mano, se dico che ti amo, se dico che ti amo, se dico che ti amo. Tu sei raggio di sole, sei la strada nel mio cuore, sveglio al mattino, tu ragione per cui vivo, scrivo ciò che sento, tu sei l'aria che respiro, e tu sei diventata il mio soffice destino. Inizia a ballare, fa quel movimento, inizia a ballare, stai fermo è impossibile, e tutto il resto diventi invisibile, diventi invisibile. E non mento se dal coso vorrei una macchina del tempo, prestami una gomma per cancellare il mondo, ti lascio spazio a me, intorno a me un tondo, segnato a matita, come la mia vita, come la mia vita, come la mia vita, come la mia vita.